seconda parte di Essere Avere, dedicata all'analisi delle nuove tendenze in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Buon pomeriggio Patrizia. Grazie, buongiorno a tutti. Luxury, il tema della puntata di oggi. Il termine nasce dalla fusione di low cost e luxury e rimanda al concetto di lusso accessibile, prodotti e servizi di qualità ma dal giusto prezzo. È una tendenza ormai radicata che interessa la moda, il design, l'arte, una tendenza espressione dei nuovi stili di vita che fanno del risparmio e delle stanze antispreco i propri valori di riferimento. Patrizia. Luxury è uno dei molti ossimori che però rende bene l'idea di un fenomeno che vede appunto il lusso e il low cost come, possiamo dire, due facce della stessa medaglia. Allora, il basso costo di luxury è un low cost ad alto valore percepito dal consumatore, e questo appunto è il value for money legato alla marca, quindi al mondo immaginario e narrativo della marca, e il lusso che si ridefinisce intorno a un concetto di esclusività che non è più esclusiva nel senso letterale del termine, cioè escludente, quindi per pochi, ma più inclusiva perché di fatto è accessibile, si apre cioè a nuovi potenziali target. Quindi rimane comunque il lusso ostentativo, conservativo, quello tradizionale che continua ad esserci, cioè quello fatto di oggetti di status che fanno vedere agli altri quanto sono ricco, per cui esempi come il mascara del marchio Haute Couture Beauty, che ha il tappo in oro 18 carati diamanti che costa oltre 1 milione di euro, anche se poi ha le ricariche, oppure l'iPad nella sua speciale edizione in diamanti di imminente uscita, oppure le biciclette di lusso, ma anche i charms e le linee moda Gucci o Paris Hilton per animali, tutte le edizioni limitate, che so, la bottiglia di scotch di Glenfiddich del 50° anniversario a 16.000 euro, oppure la piastrella da bagno Il Bacio di Gustav Klimt prodotto da Original Style in oro 24 carati che costa 400 sterline a pezzo. Insomma, alcuni esempi per dire che tutto questo rimane come modo di definire la propria identità sociale attraverso questi oggetti, ma il lusso contemporaneo è interessante quando appunto entra anche in risonanza con il low cost e quindi non fa più rima con spreco. Da segnalare a questo proposito il repairing di lusso: borse, abiti, scarpe griffati naturalmente di alto di gamma che non si buttano ma si ricucciano, si rianimano, si rimettono a modello, si ricolorano addirittura. Tra i ricchi e famosi di New York questa è diventata una nuova abitudine all'insegna del meno spreco e facendo del rattoppo una cosa molto cool. Esempio già notissimo in ambito hotellerie è Armani Hotel, primo albergo progettato dallo stilista nel Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo nel quartiere downtown di Dubai. Queste 160 stanze che vanno da un minimo di 800 euro fino ai 13.000 della suite. E questo appunto è il lusso da nababbi in stile Armani di cui stiamo dicendo. Però la notizia sta nel progetto Armani dei super ostelli, come li ha definiti lui stesso, perché anche ai giovani piace il bello e quindi saranno hotel da 100 euro a notte ma totalmente Armani, quindi caricati di tutto l'immaginario, i valori di marca e anche gli stilemi estetici declinati in un'esperienza diversa per prezzo ma appunto piena di questa esclusività fatta di grande attenzione ai dettagli, sobria eleganza, design e rifiniture impeccabili. Armani in questo senso non fa che seguire un trend già consistente e molto affermato nelle capitali europee, quello cioè degli ostelli di design, notoriamente luoghi tutta sostanza, niente fronzoli, che si sono evoluti rimanendo no frills ma con il valore aggiunto dell'esperienza estetica. Dagli hotel al mondo abitare, in particolare l'edilizia modulare di lusso. Allora parliamo di ville prefabbricate, sono quelle firmate da Leo Marmol e Ron Ratzinger, notissimi in California per le lussuosissime dimore da rivista patinata, proprio da film hollywoodiano, ma anche recentemente per le case prefabbricate. Una l'ha acquistata anche Tom Ford. Sono ecosostenibili, hanno tempi record di costruzione circa 8 settimane e grande resistenza sismica. Dunque sono low cost, nel senso che la serie Rincon 5 parte da $179.000, ma in tutto e per tutto sono delle ville hollywoodiane molto accessibili. E c'è un prodotto che secondo noi su tutti rappresenta al meglio questa tendenza con le sue due anime, lusso e low cost. Scopriamo quale in questa scheda. Fra i marchi brasiliani più conosciuti al mondo, le Havaianas sono ormai sinonimo di infradito. Vendute nel mondo al ritmo di 500.000 paia al giorno, in Brasile sono talmente diffuse che fanno parte del paniere dei beni di consumo per calcolare l'inflazione. Prodotto trasversale per eccellenza, le mitiche infradito in gomma, semplici, colorate e democratiche, si sono evolute fino a diventare una calzatura glamour indossata anche dalle star. Ne sono state create edizioni in serie limitate, firmate da artisti e stilisti emergenti, vendute nei negozi più esclusivi, come quelle ideate per il megastore del lusso Dazlu, che arrivano a costare oltre 170 euro. Ultima novità, le MyHo, Make Your Own Havaianas, le flip-flop personalizzate da realizzare da soli. Patrizia, questo esempio lo rende evidente. Luxury vuol dire anche una fusione dei due modelli di business. I prodotti low cost vengono ideati, commercializzati, distribuiti, pubblicizzati come prodotti di lusso e viceversa. Certo, c'è questo doppio movimento, possiamo dire, dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, per capirci. Comunque un rimescolamento, un'appropriazione reciproca proprio di codici tra lusso e low cost. E questa appropriazione funziona, nel senso che un prodotto di lusso è più venduto quando la sua linea base è più accessibile nel prezzo, ma anche, diciamo, come canale, quindi diventa alla portata di tutti se il luogo d'acquisto, per esempio, è internet. Un esempio su tutti può essere Yux, moda e design alto di gamma a prezzi da outlet e a disposizione veramente di chiunque. E un prodotto popolare o commodity è più venduto quando si carica appunto simbolicamente di esclusività. Pensiamo alla Coca Light in bottiglia firmata da Lagerfeld, la cui sagoma nera di profilo si estende in tutta la lunghezza della bottiglia, tutte le linee di acque minerali in bottiglie progettate da designer che appunto fa diventare l'acqua acqua deluxe, oppure i fast food spagnoli di Ferran Adrià col cibo di qualità a prezzi da fast food. Nel movimento del lusso verso il basso abbiamo per esempio anche una tendenza confermata all'ultimo salone mondiale dell'orologeria e della gioielleria di Basilea. Le aziende tendono a realizzare modelli che garantiscano qualità altissima, tecnologia, altissima estetica, ma che sono complessivamente meno preziosi, quindi d'acciaio, certo con innesti, placature dal caucciù al carbonio all'oro rosa, ma a prezzi più competitivi per nuovi pubblici, quindi non rigorosamente pensati e offerti al target lusso tradizionale. Questo vale anche per i marchi moda come Ferregia, Scavalli, D&G, che firmano orologi molto accessibili a poche centinaia di euro. Dior, per esempio, ha fatto la linea Bijou, una linea low cost, che è un'operazione molto ben riuscita per un target appunto più giovane, e il tutto senza depotenziare l'identità del brand. Questo è un po' l'equazione da centrare. Nel movimento verso l'alto abbiamo esempi notissimi: H&M con Collection of Style, le collezioni di lusso uomo e donna con posizionamento medio-alto, e tutte le collezioni firmate con stilisti di fama internazionale, e lo stesso vale per Zara, eccetera. Ma abbiamo fatto questa puntata sulla parola luxury, che è stata usata da Custo, il marchio notissimo di Barcellona, per definire la sua collezione primavera-estate 2010. Quindi luxury viene definita dallo stilista stesso il lusso sostenibile, ma non tanto per l'ambiente quanto sostenibile per le tasche del consumatore. Quindi in questa nuova più specifica accezione lo definisce il glamour accessibile. Chiudiamo con il cibo. Daniel Patterson, chef stellato del ristorante gourmet Koi di San Francisco, esprime un concetto molto interessante e innovativo di lusso low cost. Dice: siamo 10 in cucina per 29 posti a sedere, dedichiamo moltissimo tempo a creare piatti perfetti, intendendo buoni, belli, sani e semplici da mangiare. Patterson ha messo al bando prodotti di lusso intesi come foie gras o manzo Kobe e predilige erbe selvagge, radici, fiori commestibili, legumi, cereali, verdure. Quindi fa menù degustazioni che variano ogni giorno, perché Patterson non si rifornisce da distributori dell'alta ristorazione ma va personalmente a fare la spesa e sceglie gli ingredienti migliori, anche culturalmente migliori. Quindi dice: è facile mettere in un piatto del caviale, molto più difficile far diventare exciting un fagiolo. Quindi il lusso in questo caso è un'esperienza di consumo del cibo esclusiva, perché è localmente situata, non è riproducibile altrove, è vincolata a quel luogo, a quella persona, al suo sapere, al suo background culturale, a quel tempo e a quella stagione. Un'operazione simile naturalmente a quella che in Italia ha fatto per primo Oldani. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo ad Amsterdam su luxury e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher. Alessia Zampano, bentornata. Grazie, buon pomeriggio. Siamo qui perché nell'area portuale a nord-est della città c'è un posto che è la sintesi perfetta di queste due anime, l'anima Low e l'anima Luxury. Un edificio pregno di storia, è stato prima un ostello per immigrati, poi un riformatorio e oggi meravigliosamente riconvertito in albergo su progetto del noto collettivo di architetti olandese MVRDV. Un luogo che contribuisce attivamente all'estrema vitalità culturale di questa zona e che è diventato non solo una meta turistica, ma un vero e proprio punto di incontro di creativi e nomadi contemporanei. È il Lloyd Hotel, questo è il suo nome, che ridefinisce gli standard dell'accoglienza, superandoli. Impossibile infatti classificarlo secondo il classico rating delle stelle, perché le sue 117 camere sono tutte diverse l'una dall'altra e il loro prezzo varia dai 100 ai 500 euro a notte. Ma badate bene, i servizi sono esattamente gli stessi, a far variare il prezzo sono solo i metri quadrati a disposizione, che poi, nel caso delle camere meno costose, sono ingegnosamente sfruttati e allestiti anch'essi come quelli delle camere più costose dal fiorfiore del design olandese. Per cui poco importa che si scelga l'esperienza di lusso o quella basic, perché in ogni caso l'esperienza sarà unica e a suo modo esclusiva. Grazie Alessia. Patrizia, al di là dell'etichetta, della definizione luxury, è il tramonto, possiamo dire che è il tramonto dei vecchi parametri che usavamo per classificare i prodotti? Ma dunque, lusso si contorna sempre di nuovi aggettivi e ne abbiamo tantissimi: etico, accessibile, low cost, sostenibile, immateriale, personale, eccetera. Un ulteriore aggettivo potrebbe essere quello di invisibile, nel senso il lusso che c'è ma non si vede se non con gli occhi esperti di chi sa riconoscerlo, così come si riconosce una cucitura perfetta che non si vede. Quindi un po' come la bellezza che è negli occhi di chi guarda. Dal punto di vista del paradigma del concetto di lusso, data la centralità del soggetto contemporaneo, che è un po' il nostro assunto di base che ripetiamo sempre, l'idea potrebbe essere quella del me luxury, cioè l'interpretazione assolutamente personale del lusso che diventa complice intimo, appunto invisibile agli altri e mantenendo le sue caratteristiche di immaterialità, perché è sempre più legato a tempo, spazio, silenzio, eccetera, però diventa soggettivamente e relativisticamente valutato in termini di value for me. Finisce qui anche questa puntata con il meglio di della stagione di Essere Avere, puntata riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito radio24.it. Mandateci le vostre idee, i vostri suggerimenti a essereavere@radio24.it. Gli spunti di approfondimento per i temi delle nuove puntate che stiamo preparando per settembre. In attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.